Jordan, esco sta meno di uno psichiatra. Un'altra mattinata in cui mi guardo allo specchio, sono solo più vecchio, ho forse l'impressione perché ho fumato parecchio. La vita è una puttana, è giusta e non ti caga, e se mi ammazzo di lavoro è solo per la busta paga. Col capo che mi affligge, non sento cosa dice, penso soltanto che questa vita non mi si addice. Tra straordinari mille cazzi, cerco la musica, cerco i miei spazi, che qui è da uscirne pazzi. Giorni in cui speri di svoltare tutto in vano, finisci stanco, morto a casa, stravaccato sul divano. Ma tutto quadra, tutto torna, quando un altro testo mio prende forma, e a letto la mia donna. Quello che conta è stare bene pure quando il resto crolla, anche per oggi andata mi stendo e mi accendo un'altra jolla. Giorni uguali ad altri giorni, sai quando esci ma non sai quando ritorni, stringi nei pugni i tuoi ricordi e i tuoi sogni, voglia di farcela e nottate insonni. La sveglia suona troppo presto, io troppo tardi a letto, ed è per questo che occhiaie gonfie sopra il setto. Non mi lamento, mi faccio forza ed esco, inseguo i miei obiettivi, altrimenti qui non cresco. Col caldo tocio col freddo, d'estate o d'inverno, pendolare su ste strade in eterno. È perduto chi sta fermo, io giro come un perno. La vita vera è fuori dal tuo schermo. Mi han detto, i sacrifici stanno bene coi sorrisi, e prendi tutto ciò che puoi in tempi di crisi. In giro vedo vite in leasing, troppi drammi da troppi anni scavati sopra i visi. Tu invece cosa mi racconti? Che tutto il giorno dormi, fai tanti sogni ma poi non tornano i conti. Io invece scalo mari e monti finché volerò, non sono stanco, quando muoio mi riposerò. Giorni uguali ad altri giorni, sai quando esci ma non sai quando ritorni, stringi nei pugni i tuoi ricordi e i tuoi sogni, voglia di farcela e nottate in sogni. Mi sveglio, provo ad iniziare meglio. Un Napoleon jeans fresco, caffè Milano ed esco. Rotaie dopo traffico sconnesso, il giornale al bar è 8 ore tra email e desktop. Pausa pranzo, progetti piano ferie, al lavoro robe serie, a sera cene deleterie. Sempre di corsa, stretto in una morsa di progetti per svoltare, di un'idea clamorosa con il capo che ti stressa, con l'ansia sempre in testa. Fumo un'altra sigaretta, esco mo' il passo si affretta. Ogni giorno è un giorno in meno per il weekend, e al ritorno in cuffia un beat di Puni, bella lì man. Getting money le fa girare il mondo, nel delirio mi confondo, ma appena posso stacco e torno. Dai miei dischi, dai miei amici, dai chi è con me, anche per oggi andata e finita scrivi di me. Giorni uguali ad altri giorni, sai quando esci ma non sai quando ritorni, stringi nei pugni i tuoi ricordi e i tuoi sogni, voglia di farcela e nottate in sogni. Ricordi di tuoi sogni, voglia di farcela e nottata insonni, insonni.